Ah, cazzo, me l'era piena. Vabbè, comunque, porto ce n'è. Allora, dunque, la lezione di oggi proprio non l'ho preparata per niente, le altre anche meno, ma insomma, voglio dire, già dice, se non è preparato questa, ma questa è proprio zero, quindi non so assolutamente cosa dire, per cui improvviserò totalmente proprio. E quindi qua vedrete cosa valgono le persone quando non sanno che cazzo dire, come riescono a tirare avanti le tre ore formali, due e mezzo di lezione. Allora, potremmo partire da qua, chiederci o richiederci, se già ce lo siamo chiesto, uso il plurale maiestatis, ma insomma, in realtà spero che anche voi qualcosina di quello che mi chiedo io ve lo chiediate pure voi, ognuno a suo modo. Allora, potremmo chiederci qual è l'interesse di una indagine sull'immaginario e sulle fantasie e sulle realizzazioni dell'uomo artificiale da un punto di vista dell'antropologia o della sociologia, cioè dello studio dell'uomo. Cioè, perché? Che cosa ci dicono i miti, le fantasie, i racconti, i romanzi, le poesie, i film, i video, i siti internet, i diari segreti degli adolescenti sugli uomini artificiali? Che cosa ci dicono tutte queste cose a proposito dell'uomo? Perché è interessante parlare dell'uomo artificiale per parlare dell'uomo? Da un punto di vista, cioè a prima vista, c'è un modo di pensare che direbbe non servono un cazzo. Cioè, se io devo indagare l'uomo, devo indagare l'uomo com'è, non l'uomo come qualcuno lo ha pensato, come qualcuno lo ha fantasticato, le fantasie sugli uomini. Cioè, no, perché? Perché devo perdermi dietro alle fantasticherie se ho un oggetto di studio che si chiama uomo, essere umano, eccetera, eccetera. Vedo qualcuno che assentì, qualcuno che ride, nessuno di voi considera sensata questa obiezione? Sì, qualcuno la considera sensata. Oh, cazzo, no? Cazzo fatto. Allora è te che devo demolire adesso. Vabbè. No, è per sapere. Allora si fa levare. Sì, no, le chiedo apposta perché sennò uno. Allora, qual è l'assunto di una obiezione del genere? Qual è l'assunto? È che l'oggetto di studio uomo abbia una consistenza oggettiva, data e contrapposta a quella dell'uomo come soggetto pensante, questo è il problema. Chi è che parla dell'uomo? Chi sono io che sto parlando dell'uomo? Chi siete voi che state ascoltando delle cose sull'uomo? Chi è il lettore di un libro sull'antropologia? Chi siamo? Siamo uomini o siamo caprette o siamo sassolini o siamo intelligenze artificiali? O siamo il Dixie Flatline di Neuromancer? Cosa siamo? Siamo esseri umani, no? O no? È problematica questa cosa, ma diciamo, assumiamo che siamo esseri umani. E quindi siamo già in una brutta, non so, ma in una situazione ambigua, perché siamo insieme soggetto della conoscenza e oggetto della conoscenza, vero? Allora, se io devo... Ci sono robe fragili? No. Se io devo spiegare e capire una legge fisica, per esempio perché i corpi pesanti lasciati liberi cadono, eh? Io sono un oggetto pesante, sì, sono anche un oggetto pesante. Se qualcuno mi piglia e non è tanto difficile con il mio peso, mi tira in alto, poi mi lascia andare, casco per terra, anch'io mi fratturo qualche osso. Diciamo però che anch'io ho una componente che è simile a quella degli oggetti materiali, siamo tutti fatti di materia esattamente come gli astucci delle penne o le altre robe, anche se molto più colorate, molto più divertenti e carine di noi, che siamo quasi tutti monocromatici, tranne il signore che per fortuna si vestono, sono un po' più sbarluccicanti, giustamente. Unica specie animale al mondo in cui le femmine sono più appariscenti dei maschi, perché sapete che in tutto il resto degli animali sono i maschi che devono, l'avete mai visto un pavone femmina? Il pavone maschio, tipo coda berlusconiana, perché è il maschio che deve competere, invece noi competiamo anche noi, anche i maschi della specie Homo sapiens competono per le femmine, ma gli strumenti che hanno i maschi per competere le femmine sono totalmente diversi da quelli, paradossi della cultura, e che purtroppo abbiamo il linguaggio e questo frega alcuni di noi, più quelli che lo sanno usare, più quelli che lo sanno usare meno. Chiusa la parentesi. Torniamo a noi, però è chiaro che se devo fare una lista delle qualità che caratterizzano me, caratterizzano noi rispetto a un qualunque cazzo di corpo contundente che si lascia andare, è ovvio che c'è qualcosa di molto più complicato della semplice presenza di materia. Io posso essere materialista integrale, posso pensare che il pensiero sia una forma di organizzazione della materia, ma è una forma di organizzazione della materia così complessa che non è spiegabile, non è direttamente spiegabile con le stesse leggi, con le stesse descrizioni che servono per descrivere la materia. Quindi il primo punto è qualunque paradosso di qualunque scienza umana è questa, antropologia, sociologia, psicologia. Tutte hanno dentro di sé questa difficoltà, questo paradosso. L'agente conoscitivo, colui che conosce, non sta a parlare di esseri umani, il soggetto, cioè il centro di organizzazione dei discorsi intorno a quell'oggetto è lo stesso oggetto, no? Quando le femministe negli anni 60 cominciarono e poi negli anni 70 scoppiarono e ci dissero a noi maschi che facevamo politica all'epoca e progettavamo impossibili o possibili ma malissimo organizzate rivoluzioni, e ci dissero a noi maschi, dice, ma smettete di trattare voi stessi e noi come se fossimo degli oggetti. Smettete di fare un discorso apparentemente oggettivo sul mondo, eccetera. Parlate di voi stessi, noi cominciamo a parlare di noi stessi, ci avete rotto i coglioni. Non dissero così perché le signore non si esprimono mai così, a parte perché sono esseri molto più gentili di noi maschi, ma anche perché fisiologicamente non hanno quella parte sessuale a cui noi facciamo riferimento, ci siamo scocciate, ci dissero, di voi che continuate a staccare voi stessi da voi stessi e fate finta di guardarvi dall'esterno. No, parlate di voi, parliamo di noi, non è possibile dire nulla se non si parte da ciò che siamo. Ogni indagine antropologica, ogni sapere parte da chi si è, però certamente in gran parte dei casi nasconde e occulta questa origine personale, individuale, ma anche dal punto di vista epistemologico, senza arrivare a questo estremo che però è interessante perché è rivelatore, cioè diciamo l'esortazione che ci fece il femminismo poco dopo la metà del secolo scorso a non evitare di parlare di noi stessi, di di essere noi stessi mentre parliamo, mentre scriviamo, mentre pensiamo. Ma in generale, anche se noi facessimo finta di metterci da un punto di vista, anche il cosiddetto luogo neutro dal quale io tento di elaborare un pensiero descrittivo, oggettivo, scientifico, è un luogo occupato comunque da uno o più esseri umani. È sempre l'essere umano che determina le categorie, decide cosa è rilevante, cosa che cosa no, quindi decide i criteri di pertinenza. Ogni scienza, ogni discorso scientifico non è altro che una discriminante di pertinenza, no? Dice, queste cose sono utili per questo discorso, queste altre cose no, di questi aspetti è interessante parlare, di questi altri no. Questo è il primo passo che voi dovete fare per organizzare un qualsiasi discorso, e di fatto siete già a metà dell'opera, almeno se siete riusciti a decidere il vostro criterio di pertinenza. Qua quali sono? Un altro modo di dire lo stesso concetto è: non contano tanto le risposte alle domande, che saranno lunghe, saranno tante, saranno anche irraggiungibili, ma conta il formulare bene le domande, sapere bene che domande fare. Quando noi sappiamo bene che domande fare, abbiamo già risolto metà di questa cosa. Bene. Ebbene, il discorso dell'antropologia, della psicologia, della sociologia è un discorso ambiguo, perché è un discorso in cui soggetto e oggetto coincidono. Primo punto. Secondo punto. I caratteri della soggettività umana, cioè le caratteristiche dell'essere umano, che sono quindi tante, che in qualche maniera poi verranno declinate diversamente, ma sono tanto caratteristiche dell'indagine, dello strumento di indagine, quanto caratteristiche dell'oggetto dell'indagine, stanno in entrambi i posti, stanno in entrambi i poli. Bene, la più importante di queste caratteristiche è la sua estrema plasticità. Tutti gli esseri viventi sono in qualche modo plastici, plasticità, tutta la materia da un certo punto di vista è plastica, ma la plasticità della materia inorganica, le Dolomiti non sono fisse, non sono lì da sempre, sono il risultato di un cazzo di pressione sotterranea terribile, lunghissima. Quanto cazzo di tempo ci hanno messo per formarsi le Dolomiti, le montagne rocciose, i monti? Ci hanno messo milioni, milioni, milioni di anni. Tutta la natura è plastica, non c'è nulla di fermo. Questo già lo diceva Lucrezio, questo già lo sapevano gli antichi atomisti, lo sapevano Democrito, Leucippo, Epicuro e poi Lucrezio, che è l'unico, è l'unica persona di cui c'è rimasto un testo organico sulle teorie atomistiche. Tutti gli altri sono persi, ma invece Lucrezio è rimasto. Ma i tempi sono terribilmente lunghi. La plasticità della vita, la vita nei confronti della materia inorganica, introduce una terribile accelerazione della plasticità. La farfallina, la farfalla, fa 2-3 mesi di incubazione, poi dalla farfalla esce la cosa, la farfalla vive un giorno, in un giorno vive e muore. Noi 60, 70, 80, dipende, insomma, quelli che rompono i coglioni di più, anche 100, 110, poi per nostra fortuna moriamo, insomma. La vita è un ciclo di trasformazione e di mutazione terribilmente accelerato nei confronti e quindi la vita mette in luce molto più di quanto non metta in luce la materia in quanto tale nei confronti. Certo, se fossimo gli Ent di Tolkien, sapremmo, siamo lì da 582.428 anni, abbiamo visto la marmolada crescere di 4 centimetri, cazzo. Mi ricordo quando ero giovane era più bassa la marmolada, perché così, no, non siamo degli Ent, viviamo tutti quello che viviamo, e quindi rispetto alla nostra scala temporale la natura ci pare immobile, ci pare ci pare immutabile, ci pare sempre la stessa. La vita invece è più complicata, e la vita più plastica è una terribile accelerazione della plasticità tipica di tutta la materia. Questo vale a livello del singolo essere, perché a livello della specie, le specie magari non hanno gli stessi cicli delle montagne o dei fiumi, ma anch'esse hanno una relativa stabilità piuttosto lunga. Possono vivere, possono riprodursi quasi uguali o con variazioni minime, impercettibili a qualunque indagine, per non centinaia di migliaia, ma milioni e milioni di anni. Sì, però noi, come la nostra piccola esperienza, abbiamo le caratteristiche di tutta la specie. Sì, questo si dice, il termine tecnico è l'ontogenesi ricapitola la filogenesi, certo, da un certo punto di vista è vero, ogni essere ricapitola. Però se tu guardi gli esseri umani oggi, diciamo dal punto di vista biologico, li guardi oggi e li guardi non 10.000, ma 30.000 anni fa, 40.000 anni fa, le caratteristiche biologiche di Homo sapiens sono immutate. Non c'è nessuna differenza tra noi biologica, dice, capacità cranica, forma fisica. Ci sono alcuni dati, per esempio in alcune popolazioni, ma non in quelle di tutto il mondo, l'altezza media si è alzata perché l'alimentazione cambia, ma tranne questi dati brevi, diciamo, la capacità cranica, il numero di neuroni medio non è cambiato per nulla, quindi la specie sembra immutabile pure lei, mentre il singolo individuo è mutevole perché nasce e muore, quindi ogni altro individuo è in grado di assistere alla nascita e alla morte di suoi simili, no? Noi per quanto riguarda gli esseri umani e gli agli o ogni altra specie animale. Dal punto di vista della specie, le specie sembrano più stabili. In realtà non sono stabili neanche loro, perché sappiamo che c'è questo meccanismo messo in luce per la prima volta da Darwin, in modo complessivo da Darwin, della cosiddetta selezione naturale, cioè della mutazione casuale, eccetera, eccetera, per cui sappiamo che anche le specie evolvono, ma diciamo i tempi della mutazione biologica, i tempi del cambiamento, della trasformazione biologica sono comunque tempi lunghi, tempi lenti. Nell'essere umano che cosa c'è che ha reso ancora più accelerato e quindi ancora più visibile, ancora più sperimentabile questa logica di trasformazione? Ovviamente la sua cultura, cioè il suo linguaggio, cioè il fatto che noi ci affidiamo come principale strumento di rapporto col mondo a una struttura rappresentativa totalmente arbitraria di un sistema di suoni organizzato che collega dei significanti con dei significati, cioè il nostro, come dire, linguaggio, e a partire da questo linguaggio costruiamo un'organizzazione sociale delle istituzioni più o meno stabili, più o meno, e come dire, il sia pure ancora lento rispetto ai ritmi della metamorfosi individuale, cioè della nascita e della morte individuali, ancorché anche se più lento di questi, i meccanismi di mutamento, di trasformazione di questo strumento, cioè del linguaggio e della cultura in genere, sono comunque più rapidi di quelli della biologia. Tutta questa lunga cosa serve per rimettere a fuoco il problema, e torniamo a noi. Qual era la domanda dalla quale eravamo partiti? Non me la ricordo più bene, ma qualcuno l'avrà sicuramente segnata, come l'abbiamo formulata. Se la dico adesso, la dico diversa da prima. Quindi riditemela come l'ho detta all'inizio della lezione. Chi l'ha scritta? Chi l'ha scritta la ridica come l'ho detta all'inizio della lezione? No, lei è la... Sì, lo so, è lei la più... è efficace che sia l'uomo. Sì. Più o meno è questa. Adesso sicuramente ora la dico un po' diversa da prima, ma questa era la domanda dalla quale eravamo partiti. Perché è interessante parlare dei sogni e dell'immaginario sull'uomo artificiale per studiare l'uomo? L'obiezione che avevo fatto, la finta obiezione che avevo fatto e che qualcuno di voi gentilmente ha fatto finta di a cui ha fatto finta di aderire per permettermi di avere un bersaglio polemico totalmente immaginario e fittizio, me ne rendo conto, quindi era questa. Perché dovrei mettermi a studiare le fantasie sui robot e sugli dèi e sugli esseri di argilla e sui golem e sulle cose, se per studiare gli esseri umani, se ho di fronte a me l'uomo da studiare? Non è meglio che mi concentro su quello che l'uomo è davvero e non su quello che l'uomo pensa di essere o vorrebbe essere? E allora la mia risposta a questa, a chi eventualmente mi avesse fatto questa obiezione, è che è non dico impossibile, ma è difficile distinguere e dire, sapere quello che l'uomo è davvero e distinguerlo da quello che l'uomo fantastica su se stesso. Perché ciò che l'uomo fantastica su se stesso, in virtù di questo suo meccanismo linguistico e culturale, l'uomo è diciamo non solo il suo aspetto biologico nel senso della stessa biologia degli altri animali, ma anche quel tipo di biologia particolarissima dell'uomo che produce il linguaggio, che produce la cultura, che produce l'immaginario. E quindi l'uomo è esattamente non solo quello che fa, non solo quello che produce, non solo quello che fabbrica, non solo i prodotti della sua industria o della sua agricoltura, insomma i prodotti, le cose visibili, quantificabili e misurabili che produce con le sue mani e con la sua testa, ma contemporaneamente l'uomo è ciò che immagina. Ecco perché è importante. E se io immagino una montagna diversa da un'altra, va bene, questo può essere interessante. Se immagino un paesaggio alieno, questo può essere interessante, mi dirà qualcosa su di me, certamente, ma ho sempre immaginato qualcosa che non è l'uomo, no? Allora, se voi leggete Il Signore degli Anelli e dite, interessante la Terra di Mezzo, interessante come ha pensato la Contea, interessante come ha pensato il paesaggio, ma che cosa c'è di più interessante nel Signore degli Anelli? Quali sono le cose più interessanti del Signore degli Anelli? Sono gli esseri viventi che lo animano, sono gli elfi, sono gli ente, cioè sono gli esseri umani trasformati, perché tutti questi esseri di cui ci ha parlato Tolkien, a chi è che sta sul cazzo Tolkien qua dentro, scusate, così almeno evito di faccio un altro esempio, perché no, io odio il fantasy, però obiettivamente Tolkien è l'unico fantasy che l'unico, uno dei pochi che mi pare valga la pena di leggere. Adesso mi è uscito questo esempio, potremmo fare 50.000 altri. La stessa roba vale per i robot, come ovvio, insomma, non cambia nulla. È interessante studiare gli Ent, studiare gli Hobbit, studiare gli Elfi, perché sono tutti esseri umani, sono tutti uomini, tutti esseri umani, cazzo. Gli Hobbit sono altri così, hanno i piedi pelosi e lunghi, ma cazzo, poi sono uomini, Gli elfi hanno le orecchie a punta, gli occhi così, sono esseri umani pure loro, anche se nella genealogia immaginaria di The Lord of the Rings sono razze aliene. Ma anche i robot sono uomini, ma anche gli alieni sono uomini. Anche gli alieni di Wells, anche queste specie di ragnetti schifosi acquattati dentro i loro dischetti volanti, se non avete letto il libro, spero che abbiate almeno visto uno degli innumerevoli film fatti sulla guerra dei mondi, insomma sapete che da un punto di vista biologico i marziani di Wells sono esseri piccoletti, insignificanti, ma hanno questa tecnologia terribile, quindi stanno dentro a queste macchinone che si muovono così, se vanno, cioè. Anche loro sono esseri umani, anche loro sono uomini, sono la proiezione di sogni umani Una volta che uno ha il linguaggio, una volta che uno possiede uno strumento come il linguaggio, non farà, è condannato, non potrà mai parlare altro che di se stesso. È una roba terribile, me ne rendo conto, è bruttissimo, è bruttissimo, potremmo essere, cazzo, se fossimo Dio, cioè, cosa? Te è ottimo, pensaci bene, è una maledizione. Sì, maledizione, però quello è vero umano, quello che noi conduciamo a parola umano, andiamo a dire, è ideale dell'uomo, noi non siamo quello che vuol dire parola umana. Noi non siamo quello che vogliamo essere, dice. In ricerca, cerchiamo l'uomo dentro di noi. Ecco, vedi, questa è... Quello è creato da noi. Questa è un'antropologia della... Ma perché secondo te c'ha... Addirittura secondo te questo ideale ha una... con realtà, esiste da qualche parte? No, non esiste. L'abbiamo creato. Quindi siamo noi. Sempre noi, l'abbiamo creato noi. Siamo certo. Sempre noi che però creiamo questa cosa. Però non siamo quello, noi non siamo un certo. Siamo anche quello. Arrivare a quello. Siamo anche quello. Quella siamo anche aggiungere quella idea. Siamo anche quello. È un pezzo, siccome gli erbi e anche tutti hanno un pezzettino di quella idea di uomo. Però, quello che mi dà un po' fastidio. In cosa? In Tolkien? No, in Tolkien. Perché nel Tolkien era un vecchio professore di filologia, abbi un po' di compassione per i vecchi professori. Sono persone così, sono... Non dovevo dire questo. Va bene, no, è che io difendo la categoria. Anche a me il linguaggio mi quel discorso di cioè, usare la parola uomo così, cioè, quando uomo vero non esiste, cioè, purtroppo non esiste altro, però... Anche usare la parola seggiola così è pericoloso, Tutte le parole sono pericolose, perché non perché bravo, allora, genere umano, ma cos'è umano? Che cos'è umano? Bravo, questo è un problema. Quello abbiamo creato, è un problema, benissimo. E noi allora, siamo quello. Va benissimo, questa mi sembra una risposta buona. Allora, siccome l'umano è indefinibile di per sé, ma oggettivamente è indefinibile, perché il grado di plasticità più estrema che si realizzi in ciò che noi vediamo intorno a noi. Il grado estremo di plasticità e di indeterminatezza anche, di indeterminatezza, noi siamo indeterminati. Non siamo così tanto, diciamo, determinati. Ed ecco perché tutti i venditori di natura umana sono dei mercanti disonesti. Che ci vendono una merce che non c'è. Non c'è la natura umana, non è descrivibile, non potete fare la lista e dire questa è la natura umana. Il signor Ratzinger in questo ci pila per il culo, lui come tanti altri, Massimo Cacciari uguale, non cambia tanto, però Cacciari fa meno danni ovviamente di Ratzinger, fa solo il sindaco di Venezia, buono. Non esiste una lista di adesso faccio A, B, C, D, E, ho esaurito, ecco l'uomo. Non esiste l'uomo. L'uomo è la potenzialità indefinita. Attenzione, come la materia. Non è che noi siamo diversi dalla materia, la materia già ce l'ha dentro di sé. La materia, il modo di combinare gli atomi tra loro, da quando la fisica ha scoperto le sostanze transuraniche e il meccanismo della radioattività e ha quindi riportato d'un botto all'attualità l'alchimia che aveva tanto disprezzato alla nascita della scienza. Oh, alchimia, che sogni! Alchimia, la fisico-chimica contemporanea è alchimistica, gli elementi si trasmutano, cazzo. L'uranio in 50.000 anni diventa piombo, cambia numero atomico. Si trasforma il suo nucleo, non ha più lo stesso numero di protoni e di neutroni. È accidenti, se non è alchimia questa, Bene, quindi la materia è plastica di per sé, non ci sono cristi, non ci sono dubbi. Quindi anche la materia, anche se uno volesse andare a dire, voglio andare a definire tutte tutte le grandi discussioni sulle teorie del tutto, troviamo adesso, abbiamo meccanica quantistica, relatività, però come si fa a conciliarle? Troviamo la teoria delle stringhe, sì, troviamo un casino di cose, ma non le troveremo mai, perché ogni volta ce ne sarà una dietro, ogni volta scopriremo che la materia ha delle potenzialità che noi non sospettavamo, che non avevamo ancora indagato, quindi anche la materia è plastica, ma l'umanità, la mankind, questa strana condizione di esseri umani, e poi non diciamo allora gli esseri umani, qualunque animale che arrivi a elaborare uno strumento come il linguaggio, qualunque animale organicamente culturale, casualmente c'è solo l'uomo sulla Terra in questo momento, ma chi può escludere? Chi può escludere che in altri, che in altri 200.000 anni altre specie arrivino a una cosa? Perché? Chi può escludere che su altri pianeti lontani un'altra linea evolutiva della vita non abbia già prodotto esseri simili a noi, ma in cui lo strumento culturale non è il linguaggio, ma è un'altra cosa, ma è un sistema biochimico? Che cazzo ne sappiamo? Non possiamo saperlo. Ma noi siamo qua sulla Terra, conosciamo solo noi stessi di animali linguistici e culturali, ma come dire, quindi il nostro oggetto di studio siamo noi stessi, ed essendo il nostro oggetto di studio noi stessi, è particolarmente interessante andare a vedere come ci siamo immaginati, immaginando delle repliche di noi stessi, immaginando di essere capaci di rifare in maniera compatta e accelerata un percorso analogo a quello che ha fatto la natura, la selezione naturale, creando, diciamo, l'essere umano. Come ci siamo immaginati e ci stiamo immaginando di poter simulare o emulare, di poter ripetere o di poter innovare con una misura maggiore o minore di scarto lo stesso processo di antropogenesi. Ecco perché l'uomo artificiale è un buon argomento per l'antropologia. Io non so se Riccardo Notte vi dice le stesse cose nei suoi corsi, spero di sì, ma se non ve le dice, pigliatevi per buona questa. L'uomo artificiale è una delle cose che più di ogni altra contraddice e distrugge il falso mito, il dogma, la panzana della natura umana, della descrivibilità della natura umana, della oggettivabilità della natura umana. Ecco, io sono così, io mi guardo allo specchio, ma che cosa vedo quando mi guardo allo specchio? Vedo qualcosa di definito? No, lo specchio davanti a cui mi guardo è uno specchio che mi rende un'immagine costantemente diversa. È come se fosse uno specchio che ruota in continuazione, o come lo specchio di cui parla San Paolo, Quando Philip Dick scrisse uno dei suoi più tristi, atroci e quindi bei romanzi, e lo chiamò Scanner Darkly, prese lo spunto da una frase di San Paolo nella seconda epistola ai Corinzi, che aveva già usato precedentemente, ed era lo stesso passaggio dell'epistola di San Paolo ai Corinzi, in cui San Paolo spiega la sua maturazione, in realtà, di come lui è diventato cristiano. Uno dei pochi passi in cui San Paolo, che è una persona irritante anche quando scrive, uno dei pochi passi in cui diventa quasi simpatico, perché non lo dice in modo, ma noi che veniamo molto con lui sappiamo che lui lì ci racconta la sua storia, ci spiega come lui è diventato cristiano, insomma, poi anche se ragazzi, secondo questo poi viene di un'altra, perché la storia del cristianesimo mi sta fatto mi sta tormentando. Allora in questo passo dice San Paolo, dice prima di te così, perché quando noi siamo piccoli, quando noi siamo bambini facciamo le cose da bambini, quando diventiamo adulti invece facciamo le cose da adulti, e così tutte le cose che da piccoli ci erano sembrate magari belle, affascinanti, ma che noi vediamo che sono confuse, vediamo che sono... quando diventiamo grandi, cioè quando diventiamo autocoscienti nella sua... quando diventiamo cristiani per lui, no? Quando diventiamo cristiani, quando capiamo quello che succede, dice allora a quel punto, dice, sappiamo, ci siamo resi conto, dice lui, che abbiamo sempre visto la verità, l'abbiamo sempre vista, ma l'abbiamo vista, conosco solo la versione latina, mi spiace, la versione latina e non quella greca, ci rendiamo conto di avere visto le cose per speculum et in enigmate. Ci siamo resi conto di aver visto le cose in uno specchio e come in un enigma. È difficile per noi capire che cosa dice San Paolo qua, perché noi pensiamo allo specchio e pensiamo ai nostri specchi, ma i nostri specchi sapete che non c'erano ai tempi di San Paolo. Il vetro, la tecnica di molatura, di rendere liscia e perfettamente trasparente una superficie di vetro, non esiste prima del fine XIII-XIV secolo, e soprattutto non si era inventata quella cazzo di roba scura che si mette dietro al vetro, perché il vetro, lo specchio cos'è? Un pezzo di vetro con dietro una roba che si chiama amalgama, adesso c'è la di, ma in primi tempi, quando ero piccolo io, c'era ancora l'amalgama, cioè questa specie di pastetta nera che aderiva, perché deve aderire perfettamente, se rimane anche uno specchino non è più uno specchio buono. No? Vabbè, questi specchi non c'erano prima del XIV secolo. Insieme con l'orologio, agli albori dell'età moderna, cioè nel trapasso tra Medioevo e età moderna, insieme all'orologio vengono fuori le tecniche di lavorazione del vetro. Il vetro, come lo conosciamo noi, questi vetri qua, sono ignoti, perché l'antichità non lo conosce questo vetro. Se voi andate a vedere il mausoleo di Galla Placidia e la basilica di San Vitale a Ravenna, che sono cose del XVI secolo, vedete che le loro finestre non hanno vetro, hanno onice, alabastro e onice, cioè fogli sottilissimi di marmo, quasi traslucido, che fanno passare la luce. Questa era la luce nel Medioevo. Una delle cose su cui gli storici dell'arte idealistici hanno scattato la minchia per secoli, la grande luminosità della pittura fiamminga, grazie al cazzo, la luminosità della pittura fiamminga. La pittura di Giotto non è così luminosa, Giotto non ha il vetro, Giotto o fa le scene all'aria aperta oppure il vetro non c'è, quindi gli interni non si possono dipingere in maniera decente. I fiamminghi dipingono bene gli interni, perché? Perché loro sono i primi, perché l'Olanda è uno dei primi paesi a costruire le finestre di vetro, cazzo. La luce, questa è stata... La luce è cominciata a entrare nelle case, quindi poi dopo certo le lanterne eccetera, ma anche durante il giorno era, cioè d'inverno uno stava al buio, anche durante il giorno, perché le finestre erano chiuse, sennò entrava il freddo, non c'era questa idea del vetro, insomma, quindi. Nell'antichità gli specchi, cosa sono? Gli specchi sono superfici metalliche, o superfici metalliche o distese d'acqua, Lo specchio di Narciso, cosa fa Narciso quando si vede? Dov'è che si vede allo specchio? Perché si china, lo dice fortuna che c'è Caravaggio, che bisogna vedere, perché si china a bere nella fonte. La fonte è stranamente ferma e lui vede se stesso, ah, com'è chi è questo ragazzo, e comincia il narcisismo, dalla lettura di Freud, di Narciso evidentemente. Narciso non era narcisista, il Narciso di Freud invece lo è. E allora o c'è lo specchio d'acqua o ci sono i fondi delle padelle, superfici metalliche belle. Ora, per quanto voi la lisciate, la state lì e con l'olio di gomito, come diceva la mia mamma, pulite le superfici delle cose, una superficie metallica non sarà mai uno specchio così bello come i nostri specchi di vetro. Lo specchio per una persona antica è sempre... rimanda sempre un'immagine deformata, sempre un'immagine incerta, ambigua. Noi diciamo non fedele, ma noi diciamo non fedele. Allora, quando San Paolo dice noi abbiamo visto le cose per speculum, et in enigmate, le abbiamo viste come in uno specchio, e allora poi questo Philip Dick fa scanner d'arte, perché scanner è una... lì non c'è lo specchio, ma insomma l'idea è simile. C'è questa idea di oscurità, questa idea che il raddoppiamento, che la copia, che la specularità porti con sé qualcosa, riduce la nostra incertezza, perché ci fa, voi ci avete mai pensato quali parti del nostro corpo possiamo vedere noi? Di quali parti possiamo essere sicuri dell'esistenza del nostro corpo tramite la vista? Di tutto, no? Beh, anche un po' della schiena, se uno è molto bravo riesce a vedere un po' la schiena. C'è una sola parte del corpo di cui noi non possiamo essere sicuri. L'interiore. Anche le persone, no? Guardiamo, Karatiri. No, di te stesso, tu. Che cosa sei sicuro di avere? Che cosa non puoi essere sicuro di avere? Cosa non posso essere sicuro di avere? Una mano ce l'hai, ti guardi, sì, ce l'hai, bravo. Qua. Il braccio ce l'hai, sì, la palla, le gambe, sì, no, tutto. Tutto ciò che c'è fuori... No, tutto quello che c'è fuori, no. C'è qualcosa che c'è fuori e che è inaccessibile. Inaccessibile. Alla vista, sì. Il collo, non so. Più semplice. La tua faccia. La mia faccia. Non la puoi, non la puoi vedere la tua faccia. Certo. Io non posso vedere la mia faccia. Tu non puoi vedere la tua. Certo, in uno specchio, certo. E noi diciamo, lo specchio va bene. Ma Daniel Dennett, un filosofo cognitivista, ha scritto un bellissimo saggio su questo. Tirandoci fuori poi delle caratteristiche, delle cose. La cosiddetta evidenza sensibile per il nostro corpo funziona stranamente per tutto il corpo, tranne esattamente che per la parte del corpo che ci consente di vedere il resto. Si potrebbe dire che la gran parte dell'immaginario delle culture umane non è altro che un terribile sforzo di riuscire a vedere la propria faccia, a vedere direttamente la propria faccia, ad avere un'esperienza diretta del proprio viso. Cosa impossibile, totalmente impossibile. Voi del nostro viso cosa possiamo vedere? Al mare, c'è una piccola parte che siamo in grado di vedere, la punta del naso, se ci sforziamo, e la lingua, però c'è un cirettadecchio, la punta del naso, ma tutto il resto, tutto quello che noi, certo, col tatto mi tocco e sento, ma cazzo, è come, è la stessa cosa, tu senti la tua voce come... come io sento la tua? No, certo. No, perché? Perché insomma. C'è una ragione fisica, no? Perché senti da dentro. Esatto, perché senti con il. Noi sentiamo la nostra voce primariamente con la risonanza interna delle ossa. Certamente poi la mia voce mi colpisce anche attraverso l'orecchio. Ma io sento la mia voce in modo diverso da come la sentite voi. Sono aperte, ma si combina la vibrazione del timpano, per la mia, quando parlo io, dentro di me, si combina con la vibrazione delle ossa del sistema uditivo e delle cartilagini degli organismi che generano il suono, del mio sistema fonatorio. Quindi questa è una ragione simile a quella per la quale noi in genere non riconosciamo la nostra voce quando ci sentiamo registrati. E invece un'altra persona che non siamo noi magari sentirà qualcosa ma la sente meno diversa. Perché? Perché noi abbiamo, il primo anno di vita, dopo 2 anni, 1 anno e mezzo, 6 mesi che parliamo, ci siamo fatti un'idea della nostra propria voce, no? Io ho una voce che io sono convinto che la mia voce vada sia tutta sui bassi, cosa che è vera, eccetera, un punto fisico, lo so. Però per esempio io di me, della mia voce, non riesco a percepire i toni alti, i toni striduli. Quando mi sento registrato sento che ogni tanto ho delle componenti stridule che mi danno un fastidio enorme, che mi gira i coglioni. ma perché devo avere ste cazzo di cose che è stupido, vi dico la stupidaggine, ma è una cosa in cui non riesco a venire a patti, non riesco a, ogni volta che devo fare delle robe per cui la mia voce deve, in genere io mi metto dietro a quello che fa l'editing e gli piglio la mano e gli faccio tagliare gli alti, perché mi danno fastidio, cioè gli faccio tagliare i toni alti, le frequenze più alte, che so che ci sono. C'è stato un periodo in cui ero convinto, come un coglione, che le macchine fossero sbagliate, che non mi dessero la mia voce come era vera, eccetera. In realtà non è la sua voce vera, è la mia voce come la sento io, perché vuol dire che le mie ossa mi danno quel tipo, e ognuno di noi, ognuno di voi ha una propria autopercezione della propria voce che non coincide con quella, diciamo, degli altri. Scusi, posso dire una cosa? Come no? Riguardo a Scanner Darkly, sì. Che io l'ho visto, non ho letto... Hai visto il film? Sì, ho visto il film. Il film è abbastanza fedele al libro, devo dire. Però c'è la presenta come negativa il fatto di non poter vedere la propria natura, cioè nel senso fa vedere l'aspetto negativo di questo, perché i protagonisti sono... Cioè sono chiaramente, diciamo, fuori strada. Cioè tossici, sono tossici. Ci sono tossici, però dico, hanno portato questo aspetto all'estremo, infatti c'è anche un continuo ribaltamento dei ruoli all'interno della... Cioè, ruoli, c'è il fatto che il protagonista Bob Arctor è un poliziotto che fa finta di essere tossico, quindi si sente da tossico, e a un certo punto non capisce più se è un poliziotto che viene da tossico, un tossico che viene da un poliziotto, o un poliziotto che fa finta di essere un tossico che fa finta di essere un poliziotto, perché poi ovviamente può andare avanti all'infinito. Certo, questo genera disagio, questo è ovvio, ma non c'entra niente la natura in questo. Che... No, dicevo che è vero che non è possibile percepire oggettivamente la propria natura, però ad esempio in questo romanzo, sì, presenta questo aspetto che se è critico, cioè se è estremo, è negativo. Cioè è giusto che ci sia, ma non no, stiamo componendo due cose. Allora, quando io parlo di natura umana, non parlo delle nostre caratteristiche singole, cioè della nostra, virgolette, natura individuale, che anche questa ci sarebbe da, come dire, discutere. Ma è evidente che ci sono, come dire, ci sono le caratteristiche di un singolo individuo, di una singola persona, come di un qualunque animale, non solo di un essere umano, possono essere in qualche maniera elencabili, vagamente, in realtà poi anche lì ci sarà sempre qualcosa che ti scappa, ma diciamo, ma questa è qualcosa che riguarda te come singolo. Il problema filosofico della natura umana non va visto in questo modo, il problema filosofico è un altro, il problema filosofico della natura umana è: esiste una lista di caratteristiche descrivibili tali che possono esaurire la descrizione dell'essere umano in quanto tale, cioè di ciò che ci accomuna a tutti noi, a me, a te, a lei, a tutti quanti, ai marocchini, anche a Umberto Bossi e a Berlusconi, senza offesa, purtroppo è così. Allora, in questo senso io dico, la natura umana in questo senso generale non esiste, o perlomeno è... Certo, che come concetto universale. Poi la singola natura del singolo personaggio, quella certo che può esistere, quello va bene, sarebbe lunghissimo il discorso da fare. Adesso io facevo il discorso solo per commentare questa frase di San Paolo dello specchio e dell'enigma e della cosa. E quindi insomma spero di avere dato quindi qualche diciamo buona ragione per renderci conto, per essere consapevoli quindi, che il tema dell'uomo artificiale è un tema squisitamente antropologico, perché ci consente di vedere come l'uomo, questa astrazione che non esiste forse, ma come tutti gli esseri umani, come le varie culture in maniera diversa dell'umanità hanno riflettuto su se, cioè quale idea hanno di se stessi, perché ogni volta che una cultura partorisce, produce al proprio interno un'idea di uomo artificiale, che cosa fa? Mescola coscientemente, mescola consapevolmente due diverse caratteristiche, cioè mescola insieme l'oggettività di qualcosa. L'uomo artificiale è un prodotto, è qualcosa che ho fatto io, che hanno fatto degli esseri umani, quindi è un prodotto come gli oggetti materiali, come le bottigliette, come le cose, come anche i prodotti dell'immaginario, ma contemporaneamente è qualcosa che o aspira a diventare o ad essere un essere umano, o viene presentato come essere umano, quindi mette insieme di nuovo, esattamente come noi, come diciamo, gli esseri umani di partenza, un aspetto oggettivo, indipendente da noi. Noi nasciamo e non abbiamo volontà, non siamo un prodotto di noi stessi, siamo il prodotto di papà e mamma, o meglio, siamo il prodotto di un processo biologico che va poi anche al di là di papà e mamma. Dico, papà e mamma sono stati, diciamo, gli agenti più immediati. Ecco perché l'ontogenesi ricapitola la filogenesi, ecco perché la nostra storia come esseri individuali in qualche modo è un concentrato di tutta la storia della specie, senza esagerare, perché poi si potrebbe dire puttanate anche da quel punto di vista, però i biologi ci spiegano che è così. Quindi anche noi, in quanto esseri umani, siamo una mescolanza di cose non decise da noi, di cose indipendenti da noi, di dati oggettivi. Batman può avere fatto, cioè può avere migliorato il proprio corpo, ma Batman non è un supereroe, non ha superpoteri, è vero, è così com'è perché si allena sempre, perché passa, vabbè, cioè, però vuol dire che già di partenza era buono. Io pure se faccio il triplo delle robe che ha fatto Batman, non divento, cioè, ma neanche ora, ma anche quando ero piccolo, cioè non sei mai diventato come Batman, insomma, non ci sono Cristi, insomma, cioè c'è un qualche dato oggettivo che non dipende da noi. Io non è dipeso da me essere nato, non ho mica deciso io di nascere il giorno XXX del 1944 in piena guerra, sotto le bombe, con il latte che non c'era, con la mamma spaventata e bla bla bla, insomma, quindi sono nato in quella lì, sono nato piccolino, gracile, cioè che cazzo, non potevo farci nulla. Molto di quello che mi è successo dopo dipende dalle scelte che ho fatto io, anche lì in parte perché mamma mi rompeva i coglioni, non mi faceva uscire di casa, quindi leggevo tanto, ma insomma. Poi diciamo che da un certo punto di vista in poi ho aggiunto una componente di auto, diciamo, sviluppo, auto organizzata, autodecisa da me, ma ci sono delle cose in me su cui io posso, e ognuno di voi può agire solo fino a un certo punto. Quindi noi siamo già di per noi una mescolanza di arbitrio, cioè di cose determinate e cose determinabili, quindi di libertà e necessità. E così anche è l'uomo artificiale. L'uomo artificiale è la mescolanza, ha dentro di sé la caratteristica di un prodotto dell'uomo, di un oggetto qualunque prodotto, quindi di essere un prodotto dell'attività umana, quindi lato oggettivo, e contemporaneamente però ha un lato di soggettività. La creatura di Frankenstein sono alcuni pezzi di cadaveri assemblati, vi fate passare dentro una caricona di elettricità, questo si anima, c'è un dato oggettivo, è stato bene. Però poi, appena arriva la scarica, nel romanzo della Shelley, questo si muove, impara a parlare e sviluppa un insieme di aspettative nei confronti del mondo, di desideri, di volontà, di bisogni che sono tipici degli esseri umani. Quindi è questo, tutti gli esseri così, tutti i robot di Asimov, gli androidi di Philip Dick, tutti quanti sono fatti in questo modo. Quindi è interessante, questo è uno studio che non è stato mai fatto in maniera sistematica, si potrebbe cominciare a provare a farlo, cioè a mettere in relazione i vari tipi, cioè le varie caratteristiche degli esseri umani, per esempio degli esseri umani, degli uomini artificiali, per esempio nella letteratura, perché è quella, insomma, nelle arti visive non ce n'è così tanti, insomma. O ci sono cose diverse come i quadri dell'Arcimboldo, ma insomma, diciamo, allora, per esempio, gli automi dei romanzi del 700 e dell'800, Hoffman, Achim von Arnim, i tedeschi di quel periodo, che tipo di caratteristiche hanno? Perché? Che immaginario rivelano? Che cosa ci descrivono? Perché? Perché gli automi di Hoffman sono fatti in quel modo, perché sono di donne, non sì, c'è una donna, insomma, che è la più famosa, ma poi sono anche maschi, sono di vario tipo, insomma, perché? Perché invece il la creatura del Frankenstein, della Shelley, è fatto così com'è? Insomma, uno studio che metta più direttamente, più chiaramente in relazione, e poi dopo tutta la fantascienza, i robot di Chape, che poi quelli della fantascienza commerciale, quelli di Binder, quelli di Asimov, e poi quelli di Philip Dick, cioè andare a vedere le singole figure di essere umano artificiale che cosa rivelano e anche in quali relazioni stanno con i sistemi produttivi. La cosa più semplice e più banale, ve l'ho già detta, è stata già scritta, non c'è bisogno di farlo questo studio, sino a che il sistema industriale non si stabilisce e non diventa visibile a tutti quanti, quindi alla fine del 700, i primi anni dell'800, anzi diciamo la metà dell'800, gli esseri artificiali sono pezzi unici, sono androidi, sono un prodotto dell'artigianato, c'è uno bravo sia nella vita reale che nell'immaginazione che li fa, li costruisce, scienziato pazzo come sia, ma è più uno scienziato bricoleur, non è un tecnologo nel senso, come dire, moderno. Nel 21 con Ruhr di Čapek, invece, per la prima volta questi esseri artificiali, che sino a quel momento erano stati dei pezzi unici, diventano fatti in serie, diventano delle masse, diventano, perché ci sono già le masse, perché c'è già un sistema produttivo che implica l'irreggimentazione, l'omogeneizzazione e l'uniformazione degli esseri umani, perché l'essere umano è stato messo in maniera esplicita, diretta e visibile al servizio di un processo di produzione che esige quelle cose. Esige la massificazione, cioè il fatto che tutti gli uomini facciano lo stesso gesto o gesti diversi ma simili nello stesso momento, quindi che tutti si comportino nello stesso modo, che tutti abitino negli stessi posti, che insomma, tutte queste cose qua. Prima non era, come dire, pensabile. Tutti gli esseri artificiali, allora, potrebbe essere interessante discutere, allora, perché però, per esempio, invece nel fumetto i supereroi che nascono più o meno in quel periodo lì, perché Batman è il primo, poi c'è Superman, siamo negli anni primi anni 30, prima metà degli anni 30. In realtà credo, se non mi ricordo male, Superman nel 36 o 37. Ma diciamo, Superman è, dal punto di vista della funzione, Superman è un alieno, è un abitante di un altro pianeta che viene sulla Terra, eccetera. Però sta di fatto che anche i supereroi successivi, quelli che sono, diciamo, i supereroi della Marvel, che sono supereroi per caso, sono persone normalissime che ogni gli capita una cazzata, lo punge il ragnetto, viene esposto alla casa, ci sono essere umani normali. Ma l'evento che li rende supereroi è comunque unico, individuale, quindi è una sorta di ritorno dell'individuo, non c'è più questa logica del robot fabbricato in serie. I supereroi non sono esseri artificiali o artificializzati fabbricati in serie, no? Sono esseri, sono diversi. E allora come mai? Questa potrebbe essere una cosa da insomma, studiare. A quali esigenze dell'immaginario viene incontro la figura del supereroe? Sì, naturalmente, la proiezione di una... Alcuni supereroi sono più chiari di altri. Capitan America nasce esattamente nel 39, cioè quando gli Stati Uniti, quando gli Stati Uniti scendono in guerra e hanno bisogno, dice, cazzo, ci facciamo anche nel fumetto, ci facciamo, allora anche lì c'è sempre il suo organismo, è un soldato normale che viene, però, e diventa Capitan America, cioè diventa il simbolo dell'America, che deve, con lo scudo, tutti ve lo ricordate, che deve far vedere di essere più bravo, che deve, perché in quel periodo l'immaginario dell'America, diciamo Roosevelt, che poi muore in fretta, e dopo Truman, avevano bisogno di, non che ovviamente sia stato il Capitan America che gli ha creato consenso, ma è stato uno dei tanti elementi del consenso che c'era intorno a casa, perché c'era bisogno di consenso, c'era da fare uno sforzo. Gli Stati Uniti non sono stati toccati sul loro territorio dalla guerra, ma dal punto di vista economico eccetera hanno fatto uno sforzo molto grosso e molto, come dire, pesante, e poi sono entrati, sapete bene, che sono entrati in guerra in seguito a uno schiaffo che gli hanno dato i giapponesi, così, come dire, ti faccio vedere io. Però poi ci ha messo 3-4 anni prima di, insomma, 3-4 prima di fare il culo per davvero ai musi gialli, no, segnate, tono ironico, se no gli appunti, se no poi lo sapevo io che parlo musi gialli, parentesi, con tono ironico, grazie, se no sembra che sia pure io, va bene, scherzo, scrivete quello che volete. Questo però spiega fino a un certo punto, insomma, però, perché probabilmente dietro, adesso è facile, adesso voi dite supereroi, ma che ci vengono le supereroi, non li legge più nessuno, adesso è vero che sono un po' in calo, però hanno avuto un periodo molti periodi, cioè per tutti gli anni 50 in America i supereroi erano i... Poi ci sono un po' di calo, poi quando arrivarono quelli della Marvel negli anni 60 di nuovo, prima dell'avvento del manga, anche un po' in genere, prima della grande diffusione del fumetto giapponese che ha una storia totalmente diversa dalla nostra, eccetera, i supereroi sono stati comunque uno dei generi più popolari di fumetti, insomma, diciamo all'interno del fumetto d'avventura penso il più popolare a lungo, per lunghi decenni. Quindi sarebbe interessante andare a vedere, ma sì, così butto io un'idea. Però. Che ore sono? No, ce l'ho, ce l'ho. Dai, troppo ritardo. No, non si è detto.